Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata a tutti. Chiedere un prestito, lo sappiamo bene, è una questione delicata. Gli strumenti del credito al consumo, se utilizzati correttamente, possono però venirci incontro in periodi difficili come questo, che rendono davvero difficile affrontare spese importanti. Con la crisi la richiesta di un finanziamento può diventare da un lato più necessaria o dall'altro più difficile da sostenere, quindi quando si può magari, e questo è accaduto anche abbastanza di frequente recentemente, si rinuncia magari ad una spesa importante, l'auto nuova, a rifare l'arredamento della propria abitazione, ma qui parliamo chiaramente poi di spese voluttuarie. Ci sono però magari delle esigenze più importanti, la famiglia, una spesa sanitaria imprevista che magari rende necessario andare in banca a chiedere un prestito personale. Ma a parte queste considerazioni, parlando appunto proprio del tema del credito al consumo, i prodotti disponibili, come sapete, sono molti, perché ne abbiamo parlato tante volte. C'è il prestito finalizzato, c'è il prestito personale, c'è la carta revolving, anche la carta di credito in qualche modo può essere considerata un piccolo prestito mensile. Ognuno di questi prodotti si adatta alle esigenze delle famiglie, ogni situazione parla per sé. Questa mattina a Salva Danaio però approfondiamo in particolare il funzionamento di uno di questi strumenti, non l'ho elencato tra i precedenti, la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Scegliendo questa strada, chi ha problemi di liquidità ad ottenere un finanziamento impegnandosi allo stesso tempo a cedere una fetta della propria mensilità ad una banca, ad una finanziaria, questo è un po' il modo in cui opera un prestito di questo tipo. La modalità di restituzione infatti è il prelievo diretto dallo stipendio, e il prestito, almeno c'è la convinzione comune, viene concesso più facilmente proprio perché c'è la garanzia del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ma è davvero così? Qual è la tendenza generale? La crisi ha colpito questo settore? Abbiamo per la verità osservatori diversi che raccontano trend differenti. Complessivamente il mercato pare in calo, mentre le società specializzate in questo segmento mostrano richieste ed erogazioni in aumento. Ma comunque, a prescindere diciamo dalle tendenze, quello che ci interessa capire è chi ha bisogno e vorrebbe tentare di chiedere un prestito di questo tipo. Come funziona? A chi si fa la richiesta? Quanto costa? E poi c'è anche la questione legata alle polizze di assicurazione legate a questi finanziamenti. Quanto costano? Anche queste polizze ci proteggono qualora non riuscissimo a versare una rata, a rispettare appunto l'impegno preso con una banca? Un tema piuttosto delicato, anche perché, come sapete bene, l'altro grande tema che si lega direttamente a quello che affrontiamo questa mattina è quello dell'occupazione, quantomeno della disoccupazione, che nel nostro paese è in aumento, per cui se non si ha un contratto di lavoro sicuro è abbastanza difficile che si possa chiedere un finanziamento di questo tipo. Roberto Anedda, responsabile marketing e prestiti online, buongiorno e bentornato Roberto. Buongiorno, ben ritrovato a tutti. E benvenuto a Massimo Sansona, amministratore delegato di Pitagora SPA, che è una società che si occupa prevalentemente di cessione del quinto. Dottor Sanson, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. La ringrazio doppiamente perché so che l'abbiamo tirata fuori da una riunione che è stata piuttosto complicata questa mattina, quindi la ringrazio doppiamente per la sua disponibilità. Le abbiamo un po' complicato la giornata. Allora, per gli ascoltatori, il numero verde per intervenire lo conoscete bene, è l'800240024, oppure ci potete scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure andate anche a curiosare su Facebook se volete. Roberto, fermo con quel microfono, Anedda stava trafficando con il suo microfono per sistemarlo giustamente, e stavo appunto ricordando ai nostri ascoltatori che possono anche andare a curiosare sul nostro profilo Facebook, siamo su salvadanaio-radio24. Quanto alla borsa, vi ho già raccontato nel giornale radio cosa stava accadendo. Adesso vedo che gli indici che hanno intrapreso il territorio negativo stanno peggiorando. Milano in particolar modo perde lo 0,8%, stamattina c'è stato un avvio di contrattazioni piuttosto volatile. Milano è anche arrivata a guadagnare lo 0,8%, giornate che ormai siamo abituati a vedere da diverse settimane. Comunque questa volatilità, questa stamattina è stata particolarmente accentuata. Come vi dicevo, adesso anche Parigi è negativa per lo 0,46%. Francoforte ha il segno più 0,10%, Londra meno 0,4%. Lo spread fra il BTP e Bund è di nuovo sopra i 400 punti base. Il rendimento del titolo decennale spagnolo è di nuovo sopra il 6%. C'è un nuovo minimo storico del titolo tedesco a 30 anni. E insomma, queste sono un po' le tendenze che ci danno la misura della tensione che c'è di nuovo in Europa, e questo è anche il frutto del risultato elettorale del fine settimana e della fortissima crisi che investe soprattutto la Grecia. Insomma, i dubbi sulla stabilità dell'euro sono ritornati abbastanza prepotenti. Lasciamo la borsa, però andiamo al tema di oggi. Parliamo di prestiti alle famiglie, credito al consumo, ma oggi ci focalizziamo sul tema della cessione del quinto dello stipendio. Abbassarsi la busta paga? È possibile per pagare i propri debiti. Questa, in poche parole, la filosofia che sta dietro alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Uno strumento che permette a chi ha problemi di liquidità di ottenere un finanziamento impegnandosi allo stesso tempo a cedere una fetta della propria mensilità, fino al 20% appunto, a una banca o a una finanziaria. Secondo i dati forniti da Assofin, nel corso del 2011 le richieste di cessione del quinto hanno visto una diminuzione del 4,7% rispetto al 2010. Un calo che va considerato però alla luce della crisi, che ha visto una discesa complessiva del settore dei prestiti personali, vista la contrazione degli stessi acquisti e del consumo di beni durevoli. Insomma, si può dire che nonostante tutto, questo strumento continui a piacere parecchio agli italiani. È significativo però che nell'ultimo anno sia aumentata del 21,5% la cessione del quinto della pensione a fronte del calo, meno 12,6%, del quinto dello stipendio. Un dato che la dice lunga sulle dinamiche che la congiuntura economica sta innescando nelle nostre famiglie, che sempre più spesso devono fare affidamento sui componenti più anziani come garanzia di sicurezza. La cessione del quinto è alla portata delle famiglie perché costituisce un facile accesso al credito e al tempo stesso non è troppo rischiosa per le finanziarie, visto che i requisiti, una pensione mensile o il reddito da un contratto a tempo indeterminato, offrono garanzie piuttosto solide. Certo, con la crisi che avanza, anche queste certezze iniziano a traballare, il che può spiegare il sorpasso delle pensioni rispetto agli stipendi. Il lavoro è sempre meno sicuro, i prezzi aumentano, così come l'incidenza delle tasse. Quando si fa fatica ad arrivare a fine mese, insomma, diventa impossibile anche la rinuncia ad una fetta della propria busta paga. 800 24 0024, il numero verde per i vostri interventi. Stavamo sorridendo con Roberto Anedda, adesso non sull'argomento perché invece è molto delicato, quindi massimo rispetto per tutte le persone che hanno necessità e devono fare richieste di prestiti perché devono soddisfare qualche emergenza familiare magari improvvisa. Stavamo invece così considerando quanto abboccano i giornalisti qualche volta quando leggono le inchieste che tanti uffici stampa mandano. Naturalmente magari qualche volta sono dati da analizzare più accuratamente, poi vi racconto, se abbiamo tempo, il motivo per cui abbiamo fatto questo ragionamento con Roberto Anedda. Detto questo, prestiti online che cosa racconta rispetto al tema della cessione del quinto dello stipendio, che è naturalmente un settore che è stato colpito dalla crisi come tutti gli altri, ma a parte le difficoltà delle famiglie che invece sono aumentate in questo frangente, sono diminuite le disponibilità degli enti finanziatori chiaramente ad erogare. Anche questo settore dal vostro punto di vista è stato colpito, e in che modo? Sì, è uno dei settori del credito al consumo che ha risentito anche lui della crisi degli ultimi anni, complessiva del settore, e innanzitutto va detto che è un prodotto, come dicevamo anche all'inizio, di nicchia, cioè molto particolare. Infatti rispetto al totale del mercato del credito al consumo pesa circa un 9% al momento. Ha avuto un boom 3 o 4 anni fa, quando si estese la possibilità della cessione del quinto non più solo allo stipendio ma anche alla pensione, e infatti tuttora il 40% delle operazioni di cessione riguardano le pensioni, a conferma del fatto che in tanti, soprattutto non so come leggere questo dato, Roberto, voi come lo leggete? Io lo guardo con un po' di preoccupazione, giustamente, perché un pensionato che si deve indebitare e farsi addirittura prelevare un pezzo di pensione per magari insomma rispondere a qualche emergenza che molto spesso sono legate alla salute, quelle dei pensionati, quindi non è una situazione che ci piace. Sì, sì, ho delle necessità di spesa. Il problema è che il settore del credito al consumo rendeva disponibile altre tipologie di prestito per i pensionati, in molti casi, infatti, per il rischio dell'età e così via. E quindi questa è stata un'estensione importante, tra l'altro venne estesa non solo ai pensionati ma anche ai lavoratori delle aziende private, mentre prima era facoltà dell'azienda privata concedere questa cessione, perché anche l'azienda ha un ruolo in questo tipo di operazione, certo, deve fare a sua volta da garante, deve trattenere essa stessa questo famoso quinto o quello che è, perché si può arrivare fino a un quinto ma potrebbe essere anche meno. Per poi versarlo. Ah, quindi è il massimo la cessione. Esatto, cioè, tra l'altro è un prodotto molto particolare perché è specifico dell'Italia, è nato in Italia, nel resto d'Europa non esiste, c'è qualche caso, o meglio, operazioni di questo tipo in Brasile, in Romania, però veramente paesi molto diversi tra loro, nel resto d'Europa non c'è, è un prodotto nato negli anni 50. In Italia è specificamente, in particolare per il settore pubblico, inizialmente era dedicato, per così dire, al settore pubblico, e il lavoratore, il dipendente pubblico che chiedeva al proprio datore di lavoro di poter fare la cessione, il datore di lavoro era tenuto a prestarsi a questa operazione, invece il privato no. Con la riforma di anni più recenti, quindi di pochi anni fa, anche il datore di lavoro privato non può esimersi da questo tipo di obbligo qualora il dipendente l'azienda, diciamo, poi la banca è un'altra cosa. Ah, no, chiaramente, poi la valutazione della banca, dell'istituto specializzato, dipende sempre dalla posizione creditizia, quindi si rientra poi nei soliti criteri. Dato che è un prodotto con teoricamente delle garanzie aggiuntive, perché c'è un vincolo sullo stipendio, certo, c'è una garanzia della rata che viene versata proprio perché quella parte di stipendio non entra fisicamente in mano del dipendente ma viene versata direttamente all'istituto, e c'è anche un vincolo sul TFR, quindi è più garantito, ovvio. Ma allo stesso tempo, proprio per questo, era un prodotto una volta soprattutto considerato come prodotto di ultima spiaggia per certi versi, cioè per chi non riusciva a ottenere altre tipologie di finanziamento, questa garanzia valeva la possibilità di ottenere almeno un certo tipo di finanziamento. Ma ha vissuto anche per anni in un chiaroscuro di operatività, perché si prestava tutta una serie di catene di Sant'Antonio, di segnalatori, sì, sottomediatori e così via, che ne ingigantivano i costi. L'opera di Banca d'Italia. E sono rimasti d'Italia, questi costi giganti, perché sto già dando un'occhiata agli sms che ci stanno arrivando e molti lamentano effettivamente questo. La questione dell'ultima spiaggia, l'ultima opportunità, e naturalmente si paga poi molto in termini di tassi, anche le spese di istruttoria, vedo. Lascio concludere, Nedda, sì, poi sì, vado sì, a Sansa. Diciamo, sì. Il problema di questo prodotto è che costa di più rispetto ad altri, perché di per sé, ma per legge, proprio per come è definito il prodotto, ha dentro anche un'assicurazione, che è un'assicurazione innanzitutto vita, quindi di per sé un'operazione costosa, e quasi sempre anche un'operazione di rischio impiego, proprio per tutelare maggiormente l'istituto e in parte anche il debitore, cioè il dipendente, qualora si trovasse in difficoltà. E quindi questo inevitabilmente aumenta il costo dell'operazione rispetto ad altre, essendo proprio un prodotto garantito da questo punto di vista. In anni recenti si è fatta molta pulizia, soprattutto anche tramite controlli di Banca d'Italia più stringenti, requisiti patrimoniali degli operatori, quindi si è molto ridotto il sottobosco di coloro che prima operavano un po' così nel chiaroscuro che dicevamo prima, e sono rimasti operatori più grandi, meno grandi, ma certo, certamente importanti, e soprattutto è tornato molto il prodotto in mano, diciamo così, attraverso il canale bancario, che per un motivo o per l'altro riesce a ridurre anche questi costi provvigionali, oppure attraverso operatori specializzati. Pitagora è uno di questi, oggi ospite, che essendo specializzato riesce anche a ottimizzare l'offerta verso la propria clientela. Sanson, le chiedo un giudizio, tra l'altro già tra un po' devo andare in pausa, poi naturalmente la faccio chiacchierare un po' più a lungo, ma le chiedo un po' qual è la sua sensazione rispetto al momento che stiamo vivendo. La disoccupazione cresce, i contratti di lavoro a tempo indeterminato cominciano a diventare sempre più un miraggio per molte categorie di lavoratori, eppure il vostro business continua ad andare bene. Non so se questo sia per voi, immagino è chiaro, una buona condizione, magari un po' in termini più globali, forse un po' meno, perché noi avremmo così piacere anche di parlare di una realtà di famiglie tranquille che non hanno sempre bisogno di chiedere prestiti. Detto questo, insomma, qual è la sua sensazione rispetto al momento che stiamo vivendo? Beh, intanto farei un'analisi su quella che in qualche modo rappresenta, diciamo, rappresentano gli utenti, no? di cui stiamo parlando. ci domandavamo prima nel vostro intervento delle motivazioni per cui il mondo dei pensionati è in qualche modo sotto il profilo di utenti della cessione del quinto rappresentano una spinta verso l'altro e del perché invece nel mondo dei dipendenti delle aziende private questo fenomeno non è esattamente speculare ma al contrario. Va detto che il decreto legge a cui fa riferimento a questo tipo di operazione è datato 1950, quindi forse anche su questo qualche riflessione poi sarà opportuno farla su come questo tipo di operazione classica, come diceva prima il collega della Nazione Italia, andrebbe poi in qualche modo rimodernata. Va detto che nel 2005, quindi stiamo parlando di qualche anno fa, la platea degli utenti che erano dipendenti pubblici, circa 4 milioni, è stata allargata a una platea di ben alta dimensione, perché stiamo parlando di circa 30 milioni di persone, tanti ne rappresentano i dipendenti delle aziende pubbliche e private dei pensionati. E quindi è chiaro che coloro che hanno avuto accesso a quel tipo di credito, cioè mi riferisco nel caso specifico al mondo dei pensionati, hanno visto in questo tipo di operazione che ha delle condizioni su cui poi vorrei anche un attimo tornare sul tema dei tassi e dei costi. Sì, sì. Mai come mai si fanno un riferimento su quello che sono i tassi e i costi di quest'ultimo periodo e su quelli che sono in questo contesto anche i temi delle reti distributive, perché uno degli altri temi su cui questo prodotto porta dietro delle macchie comportamentali dalle quali deve in qualche modo poter uscire. Comunque oggi indubbiamente la risposta al credito al consumo sta nella crisi dei consumi, no? Quindi è altrettanto evidente che colui che accede a un finanziamento accede perché ha una garanzia di avere un reddito e questo gli deriva nel caso specifico della cessione con più tranquillità, per ovvia motivazione se un pensionato ma anche se un dipendente di un ente pubblico. Quindi queste due categorie rimangono l'una costante, i dipendenti pubblici, l'altra in crescita, i pensionati, mentre nel mondo delle aziende private, vuoi per questa motivazione, quindi per l'instabilità del posto di lavoro, ma vuoi anche per i temi dei criteri assuntivi che evidentemente sono la condizione a cui fa riferimento, cioè per la concessione del prestito, nel mondo delle dipendenti delle aziende private c'è una grossa contrazione, no, sotto questo profilo. Parliamo di prestiti oggi a Salvadanaio, nella fattispecie parliamo della cessione del quinto dello stipendio, che è una modalità per chiedere chiaramente un finanziamento ad una banca, ad una finanziaria, ma praticamente è forse un po' più facile richiederlo ed ottenerlo se si ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, perché in quel caso il datore di lavoro ci dà tutte le dovute garanzie appunto per poter andare in banca e dialogare con un po' più di facilità con il direttore di questa. Sono però, come qualcuno qualche volta li ha definiti, e lo ha fatto anche poco fa Roberto Anedda, l'ultima spiaggia, nel senso che magari sono un po' quelle tipologie di prestito che si chiedono qualora altre strade siano state precluse, e facendo leva proprio sul rapporto di lavoro, appunto magari un po' più facile che ci si il richiedente venga accontentato, però hanno un problema, un limite, che è comunque una garanzia per chi chiaramente eroga un finanziamento di questo tipo, che è quello delle polizze obbligatorie, che chiaramente vengono fatte sottoscrivere al potenziale contraente, perché nel caso in cui non si riesca ad onorare le rate, chiaramente queste rispondono di questa eventualità, ma anche l'associazione, l'abbinamento della polizza rende tutto un po' più costoso, e allora ecco che in questo senso si stanno lamentando molti ascoltatori che hanno avuto bisogno di chiedere un finanziamento di questo tipo, ma che hanno dovuto sopportare anche oneri piuttosto forti. Allora, per fare un po' di ABC su questo tipo di prestito, questa mattina vi ripresento gli ospiti: Roberto Anedda, Prestiti Online, Massimo Sanson, amministratore delegato di Pitagora. Bruno da Viareggio, buongiorno, il primo ascoltatore che oggi interagisce con noi. Bruno, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo un'informazione personale, ma che è più che altro un'informazione di servizio. Io sono un dipendente pubblico da 25 anni, quindi usufruisco del sistema Impalab, che fornisce, diciamo, queste forme di prestito. Dunque, esistono un paio di forme di prestito che io sappia, che è una cessione del quinto e un prestito personale. La mia domanda è la seguente: io sono venuto a sapere che praticamente sull'importo che io chiedo, sia sulla cessione sia sul piccolo prestito, l'Impalab diciamo non aumenta del 2-3% come succede normalmente sulla liquidazione, cioè taglia fuori quel pezzo di prestito dall'incremento del costo vita. Se questo è vero, vorrei che fosse confermato. Allora, guardi, ho fatto un po' fatica a seguirla, Bruno. Dobbiamo esplorare molto nel dettaglio le modalità di erogazione di questo prestito. Magari il dottor Sanson può aiutarci. Allora, un dipendente pubblico, ci raccontava Bruno, ammettendo appunto, voi per esempio intermediate anche per il pubblico. Pitagora lo fa, dottor Sanson? Sì, sì, noi eroghiamo dipendenti, finanziamenti, dipendenti pubblici, privati e pensionati, cioè tutta la categoria di coloro che in qualche modo possono accedere a una cessione del quinto. Per rispondere la domanda dell'ascoltatore, INDAP ha nel tempo concesso lei direttamente a coloro che in qualche modo avevano i requisiti, quindi erano dipendenti pubblici come nel caso specifico, con due forme di finanziamento. L'una che è una classica cessione del quinto, dove applicava delle condizioni, diciamo, fra virgolette di favore nell'ambito di quella che è la cosiddetta garanzia vita, ma che in un contesto di questo, nel contesto a cui facciamo riferimento, trattandosi di un utente medio evidentemente con un'età tale che il costo della polizza vita non rappresenta una componente di costo che supera l'1% dalla logica del costo finale del costo del cliente, anzi addirittura meno. Se si consideri che un dipendente pubblico mediamente ha 40 anni di età e che quindi in questo contesto l'incidenza della polizza vita è veramente molto bassa. Esatto, molto diversa rispetto a quella che può essere invece per un pensionato. Su cui vorrei poi rientrare per analizzare un attimo le motivazioni per cui questo mercato nel corso degli ultimi 7 anni ha preso diciamo contorni completamente diversi e quell'affermazione di mercato dell'ultima spiaggia oggi non appartiene più a quel tipo di prodotto. Ecco, chiudiamo per Bruno, dottor Sanson. Assolutamente nel tempo, solo per concludere, mentre facevo una seconda tipologia di finanziamenti che erano i cosiddetti prestiti personali, quindi le 3 o 4 mensilità diciamo anticipate al dipendente, e queste non avevano proprio sottostante la polizza vita, quindi ne consegue che evidentemente l'onere, anche se era completamente diverso, ancorché l'importo oggetto di finanziato lo era per definizione più basso. Quindi diciamo è solo INPDAP che ha queste due modalità, dottor Sanson? Sì, solo INPDAP. Ecco, ma non ho capito dove voleva arrivare Bruno, per la verità, se sulle modalità di restituzione chiedeva se ci fosse qualche impatto, non lo so, sull'importo trattenuto per il TFR o non lo so. Le TFR evidentemente stiamo parlando di dipendenti di enti pubblici. Esatto, quindi c'è il trattamento di fine servizio, il TFS è un'altra cosa. Però abbiamo ancora Bruno. Bruno, guardi, mi deve perdonare, mi sono persa l'ultima parte della sua domanda, abbia pazienza. Scusi, volevo evidenziare che sembra conveniente rispetto all'INPDAP, però se è vero, come mi è stato detto, che viene praticamente su questa parte del prestito annullato l'incremento che viene fatto sul TFR annualmente in base al costo della vita, che è 2,5-3%, poi a quel punto vanno ricalcolati i costi, perché io a quel punto mi ritrovo un TFR molto ridotto. Ridotto solo perché insomma nel frattempo lei ha chiesto appunto questo finanziamento. Grazie. Questo risulta... sentiamo, dottor Sanson, risulta che funziona in questa maniera? Guardi, l'incidenza della polizia vita viene calcolata al momento dell'erogazione del finanziamento, quindi non ha, è una polizza che in caso di estinzione anticipata ha come oggetto il rimborso pro rata di tutto quello che non viene maturato nel tempo. Cerco di spiegarmi meglio. Se faccio un finanziamento da 20.000 euro, ammesso che la mia polizza vita incida per 400 euro, dico una cifra che non è molto lontana da quelli che possono essere i numeri di un'operazione di questo tipo, se io faccio un'operazione di natura decennale, perché non, tornando ai termini del prodotto, va raccontato che la cessione stipendio è in questo contesto l'unico prodotto di prestito di credito al consumo che arriva fino alla rateizzazione decennale, e se estingo per esempio dopo 5 anni avrò diritto al rimborso pro rata della mia polizza vita. Quindi se le ho pagate 400 al momento zero, dopo 5 anni estingo avrò diritto al rimborso di 200 euro. Allora, tutto questo ha delle regole che sono entrate in vigore diciamo in corso d'opera. Credo che Bruno abbia chiesto però un'altra cosa, magari poi ci facciamo scrivere. Ma il TFR non c'è per il dipendente dell'ente pubblico, perché non c'è l'aggancio sul TFR in caso di cessazione del rapporto di servizio, proprio perché il TFR non rappresenta la caratteristica, cioè il trattamento di fine servizio. Va bene, adesso io non ho argomenti per approfondire ulteriormente, dottor Sanson, anche il caso del nostro ascoltatore. Eventualmente ci riserviamo di chiamarlo e di noi cercare di appunto potergli dare una risposta un po' più senza nulla togliere a quello che ci ha detto il dottor Sanson, naturalmente. Però Bruno ci ha fatto intraprendere una strada un po' più complessa del previsto. Adesso ci fermiamo, ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio, poi andiamo a Renato, a Laura. Se ce la facciamo, voglio toccare il tema dei costi complessivi, magari faccio fare a Roberto Nedda un esempio di un prestito tipo che un contraente medio può chiedere, che tipo di costi ci sono, in quanti anni magari mediamente una cessione del quinto viene restituita, appunto quanto costano queste polizze. Ci faceva un esempio di una percentuale di un 1% per un quarantenne che chiede una cifra media, non so quanto possa essere media. Allora, da chi riprendiamo? Facciamo rapidamente sentire cosa vuole raccontarci Renato da Milano, tutto contento dell'associazione del Quinto. Renato, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora, intanto volevo ringraziare Radio 24, perché io, in quanto separato, non ho mai modo di acculturarmi. Allora, grazie cosa a Radio 24. C'è? Renato, perché sua moglie, la sua ex moglie, la mette così in difficoltà? Ma la fa leggere i giornali? Non puoi immaginare che il tempo diventa proprio per fare il lavoro 8 ore al giorno, e tutto il resto è impossibile. Che razza. Per questo motivo, a fronte della separazione, ho avuto necessità di chiedere una TFR al mio principale, che dopo 20 anni non mi ha voluto dare. Ho chiesto un tipo di TFR, io avevo già chiesto tempo indietro, adesso ho avuto la separazione, ho chiesto questo aiuto e non mi è stato dato, fa niente, pagheranno in un altro modo. Però grazie a Pitagora, per l'appunto devo ringraziare Pitagora, ha fatto modo che io avessi la cessione del quinto dello stipendio, e così mi sono preso la mia liquidazione e ho sistemato tante cose. Questo è proprio una cosa, anche se i costi sono quelli che sono, però io devo dire che se Pitagora non mi avesse fatto dare, o chi per lui, altre persone, perché sono altre società che lo fanno, non avesse avuto questa forma di liquidazione, io non avrei potuto Una liquidazione. Io credo che l'anticipo del TFR avrebbe avuto costi per l'azienda, perché gli veniva sottratta della liquidità. Questo è il motivo per cui il datore di lavoro non gliel'ha data. Renato, le ha fatto chiedere un prestito di cui si sopporta lei tutti i costi. Non mi pare un atteggiamento, poi, che Pitagora abbia fatto il suo lavoro, chiaramente non ha mica interesse a non farlo, ci mancherebbe altro. Non ha fatto il suo datore di lavoro, secondo me, il suo lavoro. Detto questo, Renato, se lei è contento, ci mancherebbe altro. L'importante è che abbia capito bene come funziona questo prestito, gli oneri che sopporta Anedda. Facciamo qualche esempio, ammettendo che il nostro ascoltatore abbia chiesto, 15.000 euro. In quanto tempo mediamente si restituisce, secondo la modalità della cessione del quinto, e quanto costano queste polizze obbligatorie? Come diceva prima Sanson, ovviamente, essendo una componente di polizza vita, dipende inevitabilmente dall'età e anche dal sesso del richiedente. Quindi più giovane si è, e soprattutto se si è una gentile donzella, si paga meno. Viceversa, quanto più l'età si va avanzata, quindi soprattutto nel caso dei pensionati, chiaramente questo peso può essere molto rilevante, e ovviamente ha un'incidenza percentuale maggiore o minore anche a seconda dell'importo che si chiede, perché su quello può pesare maggiormente. E per come funziona la cessione, al di là quindi dei costi di interesse, quindi dei costi di polizza, viene poi erogato un netto, quindi al netto proprio di tutte queste spese qui. Per fare degli esempi, la cessione ha una durata massima di 10 anni, poi a quel punto uno può decidere di spalmarla su una durata maggiore o minore, sì, a seconda della rata di cui ha bisogno. Maggiore la durata, più bassa sarà la rata, ma ovviamente anche gli interessi che si pagano saranno maggiori. Per fare un esempio, se uno ha un tasso medio attuale a livello di tasso di interesse proprio del 9,5-10%, se si limitasse a una restituzione in 4 anni, avrebbe una rata intorno ai 600 euro e otterrebbe un finanziamento di 24.000 euro circa netti. Questi 24.000 nascondono, nel senso che non li si vede, ma hanno a monte un costo complessivo tra polizze, interessi e così via di circa 6.000 euro, quindi il costo non è indifferente. Sui 10 anni si andrebbe su una rata molto più bassa, circa 250 euro, ma i costi aumenterebbero di tanto, si avrebbe un erogato di circa 18.000 euro e i costi salirebbero invece a 12.000, inevitabilmente, perché il periodo è più lungo, quindi si paga una polizza vita per più anni, quindi più rischiosa, più costosa, e interessi per più anni. Però, per far capire come, a fronte di un importo anche limitato, l'importo medio tende a essere sui 17.000 euro a livello nazionale, ci sia poi un fardello di costi notevole, comunque per come è costruito il prodotto. Dottor Sanz, una parte il fatto che dovete richiamare l'ascoltatore di Milano per chiaramente fargli un trattamento di favore data la pubblicità che vi ha fatto dai microfoni di Radio 24. Le posso chiedere un giudizio rispetto a quello che ho sentito prima? Adesso, per carità del cielo, no? Ognuno poi fa quello che vuole, però l'azienda dice no, io il TFR non te lo anticipo, perché non ti fai un bel prestito per il quale io naturalmente mi impegno anche a garantirti, ma le sembra corretto questo atteggiamento? Adesso qui è un giudizio personale, chiaramente le deve un attimo togliersi la giacca di amministratore delegato. Fuori diciamo dal tema dei ruoli, evidentemente nel caso specifico qui ci trovavamo di fronte a un dipendente che aveva oltre 20 anni di anzianità di servizio e che quindi probabilmente la quota di TFR che aveva maturato era tale da consentirgli un'anticipazione del TFR. Io però questo non spetta a me giudicarlo, però le considerazioni a cui voglio fare riferimento, però se mi permette vogliono tornare su due argomenti che vogliono fare un po' togliere da questo tema dell'ultima spiaggia del prodotto, perché questo è un po' l'argomento. Noi abbiamo parlato adesso di costi, no? Esatto. Ascolti Sanzo, guardi, non per essere maleducata, ci metto dentro solamente Marco da Rimini sul tema dei costi, così poi le faccio concludere la puntata in tranquillità. Marco, rapidissimo, grazie. Lei ha speso un sacco, cioè vedo che ha supportato dei costi che ritiene molto alti. Marco, rapidissimo, grazie. Sì, salve, buongiorno. Praticamente io ho fatto una cessione del quinto tramite la pensione di mio babbo, mi hanno erogato 20.000 euro, io alla fine di 10 anni vado a pagare quasi 38.000 euro, mi sembra un'esagerazione. Marco, grazie. Sanson, eccoci qua l'assist. Beh, allora, il tema della durata dell'operazione e dell'incidenza delle polizze lo ha spiegato prima Ametta, ma in maniera molto chiara, evidentemente dipende dall'età di quello che è il cliente. E lì c'è solo una sorta di autoregolamentazione che chi concede il credito deve essere in grado di poter fare. È chiaro che ci si troviamo di fronte a un ottantenne che chiede una polizza a garanzia di un prestito di 20.000 euro per gli ulteriori 10 anni della sua vita, l'incidenza della polizza che non entra nel conto economico dell'intermediario finanziario, ma è un tema di tabelle che le compagnie di assicurazione applicano. Mm-hmm. Qual è il buon senso e qual è la professionalità di chi le opera? Quel tipo di cliente evidentemente bisogna essere capace di dir di no, nel senso che ci troviamo di fronte a un'operazione che inevitabilmente, proprio per i costi aggiuntivi che l'operazione richiede, diventa troppo onerosa. Però poi dobbiamo andare poi a un numero, no? Cioè dobbiamo ragionare, ma questo prodotto oggi quanto costa media Italia? Quindi non è il prodotto della nostra azienda, è il prodotto la cessione del quinto trimestralmente, come tutti i prodotti di credito al consumo, vengono da parte di Banca d'Italia monitorati, perché sulla scorta di quello che è il cosiddetto TEGME, cioè il tasso effettivo globale medio applicato dal mercato, vengono stabilite nel trimestre successivo le tabelle sul pole, cioè le suddette tabelle soglia. Sanson, abbiamo 20 secondi, le chiedo di andare alla conclusione gentilmente. Oggi un prestito personale erogato da un intermediario finanziario costa l'11,21, la cessione stipendio costa il 10,88, è un dato di sostanza. No, quindi oggi la cessione stipendio, che contempla tutte le polizze di cui parliamo e che in caso di estinzione anticipata vengono rimborsate, è quel costo. È potenzialmente più conveniente di un prestito personale. Allora guardi, mi riservo di ritornare su questo argomento. Sanson, come sente, abbiamo già la sigla di chiusura, non posso andare oltre, ma abbiamo esplorato comunque un campo molto interessante che si presta a moltissime considerazioni. Ci ritorneremo. Grazie a Roberto Nedda, Massimo Sanson per essere stati grazie con noi. A domani saremo in diretta dal Salone del Libro di Torino. Buona giornata a tutti.